da capo. Tanto silenzio, attenza nel brusio, finché in un fracasso dissolverà. Persi nel sangue può sembrare gelido, se in sudore freddo si scioglierà. Meglio crollare ormai che penzolare, rassegnato e attonito, a polsi tesi e con la testa in giù, ricominciare da zero. Ecco perché